piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Di abbatti razzisti è arrivata l'ora della guerra alle statue e ai simboli, abbattute, imbrattate o rimosse prima che vengano prese di mira dai manifestanti, da una costa all'altra degli Stati Uniti, ma anche in Belgio e in Gran Bretagna. Così la statua di Edward Colston, mercante di schiavi, è stata demolita, trascinata per le strade e gettata nel fiume a Bristol. La mano di Leopoldo II è stata tinteggiata di rosso sangue ad Anversa. A Richmond, in Virginia, è toccato a Jefferson Davis, l'uomo che ha guidato gli Stati del Sud durante la guerra di secessione, il Sud schiavista contro il Nord che degli schiavi voleva la liberazione. A Boston la statua di Cristoforo Colombo è stata decapitata e quella che campeggiava a Minneapolis tirata giù dal piedistallo mentre i manifestanti intonavano un canto dei nativi americani. Da anni colui che ha scoperto l'America viene incolpato dell'usurpazione dei territori degli indigeni. Si moltiplicano i tweet e se ne parla sui social, ma non è la prima volta. Da anni si discute se distruggere resti del passato o nascondere statue, ultima quella di Indro Montanelli a Milano. Così come non è la prima volta che vediamo abbattere monumenti e simboli. Era già successo con Saddam Hussein. Certo, è un momento singolare, particolare e affascinante, sembra tratto da un film. In tutto il mondo gli umani stanno demolendo le statue. La statua di Leopoldo II con la mano tinta di vernice rossa, insanguinata. E beh, grazie, era un re che faceva tagliare le mani ai bambini e gli schiavi nelle piantagioni, nelle colonie belghe, se non raccoglievano quel numero importante di canna da zucchero, mi pare, cose del genere, capito? Ma poi vale anche per tutti quelli che sono macchiati di razzismo, di colonialismo, fino a Montanelli che aveva sposato una bambina di 13 anni perché questo gli dava prestigio nel plotone di Ascari che lui guidava in guerra d'Africa. Tutto può essere detto, tutto può essere sovrascritto, tutto può essere commentato, però è interessante perché di solito il fenomeno iconoclasta si manifestava o per l'insorgere di motivi religiosi che non permettevano la rappresentazione dell'umanità, e ancora sussiste questa sorta di tabù, o per un cambio radicale di linea di potere, per cui cadeva una dittatura, un regime dispotico, la prima cosa che si fa è si tirano giù le statue dei grandi dittatori, che di solito per rendere perenne la loro gloria si fanno rappresentare attraverso dei giganti, dei mastodonti. Oggi avviene qualcosa di diverso su cui vogliamo non riflettere. Improvvisamente ci si rende conto che il cambio anche abbastanza veloce, repentino, immediato, del sentire rispetto a alcune tematiche che riguardano l'umanità, l'uguaglianza, la tolleranza, il diritto e la libertà degli esseri umani, fa sì che si faccia una veloce, quanto sommaria e rozza, sicuramente rozza, riscrittura della storia, che non è una riscrittura critica che permette di contestualizzare gli eventi del passato e collocarli in tutta una serie di dinamiche che li hanno generati, soprattutto considerando quello che era il sentire generale rispetto a certe problematiche in epoche passate, ma c'è una sorta di rozzo furor di popolo, anche se ispirato da principi umanamente più che accettabili, che dice cancelliamo i cattivi. Però bisogna rendersi conto di un fatto, che i cattivi lo sono diventati cattivi con il cambiare della sensibilità generale. Al momento in cui fu eretta, commissionata, plasmata la loro effigie in peritura, non erano affatto cattivi, anzi il popolo di fronte a loro era entusiasta. Giorni fa ho visto la rappresentazione della dichiarazione di guerra Mussolini a Piazza Venezia, ricolorata dall'Istituto Luce. Beh, la piazza era piena di gente che osannava. In quel momento quello era il massimo della positività e della bontà. Oggi è un abominio, gente che urla e festeggia perché sta per entrare in guerra, da cui uscirà poi massacrata. Vedete, la sensibilità cambia, è inutile fare i conti col passato non considerando com'era la sensibilità nel passato. E le statue cosa sono? Le statue sono la rappresentazione concreta del pensiero umano, delle azioni umane, dei momenti di gloria umani, essendo gli umani transeunti, e soprattutto il pensiero dell'umanità si sovrascrive continuamente. È un controsenso che qualcuno pensi di immobilizzare nel tempo, che è un'idea molto arcaica, una persona, un essere umano, che per sua stessa natura va sovrascritto. Le sue idee possono essere accettabili, seguite, importanti per un certo periodo della storia, ma poi vengono sempre reinterpretate, rilette. Ecco, alla luce di questo noi oggi, visto che sta imperversando una sorta di guerra da social in cui tutti prendono quella o quell'altra parte, sulla storia di Montanelli che urla dal dispitto perché vogliono togliere uno dei più grandi giornalisti della storia italiana, altri dicono ma come, stuprava le bambine, insomma degli estremi che non sono conciliabili. Oggi noi proponiamo un gesto che in sé ha dell'avanguardistico, del folle, ma allo stesso tempo è una soluzione razionale a risolvere questo problema. Si presenterà sempre di più, perché anche le statue che oggi noi consideriamo di individui eccelsi, potrà venire un momento della storia, saranno considerate detestabili, perché cambia la sensibilità. Quindi come se ne esce? Se ne esce con un referendum che noi proponiamo non soltanto al nostro paese, ma al mondo intero. Aboliamo le statue. Ascoltate attentamente il testo di quello che stiamo per farvi ascoltare. Su questo sarete chiamati a dare il vostro parere e a dare il vostro contributo per proporre questa nostra radicale soluzione. D'ora in poi non si facciano più statue e quelle che ci sono vanno tutte abolite. Referendum per l'abolizione delle statue negli spazi pubblici. Potenti segnali da tutto il mondo ci dicono che le statue nulla più hanno a che fare con la contemporaneità. Questo accade perché la fama che la storia attribuisce al personaggio raffigurato è transitoria, mentre le statue sono perenni, giacciono immobili nei secoli e invadono sempre più gli spazi vitali della città. Abbiamo ancora bisogno di santi e di eroi da mettere in piazza? Arriveremo alla saturazione delle nostre piazze per sovrappopolamento di cadaveri indistruttibili di bronzo, di marmo, di pietra. È ora di imporre un rigoroso controllo delle nascite di nuove statue e una drastica selezione di quelle già esistenti. Liberiamoci dal peso di coloro che hanno fatto la storia. Facciamo che la gloria si trasformi in leggerezza di ideali da condividere fino a che ci va, e quindi da sovrascrivere quando non saranno più attuali. Tutto cambia e soprattutto cambiano le idee e i punti di vista. Proponiamo una moratoria mondiale alla costruzione e apposizione in spazi pubblici di effigi indistruttibili di personaggi meritevoli. Al massimo si costruiscano simulacri in materiali biodegradabili, che si consumino spontaneamente nel tempo massimo di un anno. Così si eviteranno anniversari e necessità di cerimonie con corone d'alloro, fanfare, eccetera. Proponiamo la rimozione indiscriminata di tutte le statue, busti, bassorilievi, statue equestri e simili che occupano spazi pubblici, facendo eccezione per quelle con conclamato valore artistico. Quelle oggettivamente orribili, come quella del Papa alla stazione Termini, saranno distrutte. Un'apposita commissione stilerà l'elenco delle statue che meritano la permanenza e di quelle che possono essere traslate in appositi cimiteri delle statue, visitabili e venerabili dal pubblico nostalgico in orari stabiliti. Chiama ora l'800 24 0024 per dirci se sei d'accordo con la proposta e, in caso positivo, aiutaci a perfezionarla per proporre un referendum a tutti gli stati del mondo. Il nostro motto sarà: la statua è nemica dello Stato. E si ricordi che solo un popolo senza statue è un popolo che sa guardare avanti. Siamo pronti a prenderci tutto il ludibrio e tutto il rimprovero del nostro pubblico, ma la nostra proposta è molto chiara. A un certo punto dobbiamo renderci conto che questa maniera di immortalare gli esseri umani è qualcosa che appartiene al passato. Siamo nella civiltà dell'ologramma, dell'impalpabile, del trasferimento dell'immagine che non ha peso. Perché dobbiamo riempire di pesantezza le nostre piazze? Il pensiero non deve essere pesante, anche il pensiero più lodevole, più aperto, più lungimirante ha una sua durata. Il pensiero si logora, si riscrive, diventa qualcos'altro. Quindi perché gli esseri umani devono rimanere di bronzo quando sono fatti di carne, destinati comunque alla decomposizione? Quindi due sono le nostre attività che sono racchiuse in questo fantomatico referendum. Da una parte proponiamo la moratoria per tutte le statue, d'ora in poi non si facciano più statue, basta, tu puoi anche aver salvato la vita a 1 miliardo di bambini, puoi anche aver scritto il poema più sublime della storia, però non hai una statua, tutto al più la statua deve essere fatta in un materiale degradabile. La mettete bella in piazza, fate una bella festa e con la pioggia poi nel giro di un annetto la statua si consuma, scompare, segue il destino della persona che raffigura. Poi basta, fine, basta con le corone una volta l'anno, con le fanfare, si ripensa qualcosa di nuovo, almeno il pensiero evolve, si cambia. E quelle che ci stanno, via tutte. Si fa una commissione di esperti, chiaro, non togliamo il David di Donatello o altre statue che hanno, o nemmeno quello di Michelangelo, che hanno in sé un valore artistico indubbio. Quelle rimangono, magari invece che tenerle nelle piazze mettiamo in posti un po' più circoscritti. Le altre, le statue intermedie, le statue equestri, il re davanti all'altare della patria, sì, ma che c'ha di bello? Signora a cavallo che non dice più nulla. Facciamo un cimitero delle statue. Aree circoscritte, dove si mettono tutte le statue, si mettono lì come seppellite comunque dallo sguardo generale, chi vuole andare va lì, fa le sue cerimonie, porta i suoi fiori, fa i saluti di tutti i tipi, insomma creare dei cimiteri per il ricordo delle persone immortalate in materia eterna e basta, d'ora in poi una civiltà senza statue. Ci state? Non ci state? 800240024, accettiamo suggerimenti e integrazioni. Mario da Grosseto, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io vorrei proporre un altro punto. Si potrebbero riesumare i cadaveri delle persone che hanno commesso dei gravi reati o che Hitler, per esempio, potremmo riesumare. Sì, ma non c'è il cadavere di Hitler, ma non c'è il cadavere, è uno dei grandi dilemmi della storia, c'è un teschio con due denti, non sa manco se è il suo. Ma questo basta come per i santi. Basta, ah, cioè, fa una specie di processo assurdo al passato. Sì, sì, ma può perché? Essere ma uno show. Cosa è già accaduta perché nell'anno 897 il famoso Papa Formoso fu riesumato, rivestito e processato. Una cosa macabra, era un cadavere putrefatto rivestito da Papa e processato. Sì, e c'era un monaco che rispondeva alle accuse. Faceva la voce del Papa da dietro. È una rappresentazione. Sì, ma è una rappresentazione grottesca, solo ai preti poteva venire in mente una cosa del genere, una specie di rievocazione dello zombie del Papa, ma è una cosa terribile, capito? Non è che lo può fare in assoluto. Può avere senso come grande spettacolo popolare, se vuole, può essere fatto anche con sistemi digitali, adesso non è che bisogna andare a riscavarne i vermi delle persone morte. Ne sono stati fatti dei processi all'impossibile, interviste impossibili, è un bel sistema, ma oggi la trasmissione va a cercare di risolvere un problema attuale. È l'iconoclastia generale, la smania di distruggere le statue del passato perché non corrispondenti più alle ideologie correnti. Prevenendo questo fenomeno, potrebbe continuare nei secoli, aboliamo le statue. Antonio da Forlì. Pronto? Sì, l'ascolto. Pronto. Buongiorno. Ma guardi, io sono favorevole al mantenimento delle statue e sono più che altro per acculturare quelli che le statue le vogliono tirar giù, perché sono la storia del genere umano che va comunque conservata, protetta e fatta conoscere. Però c'è un problema, io posso rispettare la sua opinione, andando avanti non basteranno più le piazze, perché se ogni epoca produce degli eroi, dei santi, dei personaggi ragguardevoli, avremo le piazze popolate di statue di bronzo, di plexiglass, di fibra sintetica, man mano che evolverà anche la ricerca del materiale, insomma delle effigi eterne, e ci saranno sempre uomini che avranno cambiato idea, avranno visto il mondo in maniera diversa, che diranno quella non la vogliamo. Per evitare questa sorta di discordia, la nostra proposta sarebbe di togliere proprio l'idea della statua, che l'essere umano debba essere immortalato in qualcosa di eterno. Il pensiero si mantiene in ragione della sua forza. Un pensiero che ha un valore assoluto non verrà mai messo in discussione. Un pensiero che viene sovrascritto, e allora sì, vuol dire che c'era qualcosa che comunque non si adeguava più ai tempi, e quindi viene sicuramente connotato in maniera diversa, e quindi le statue non possono più rappresentarlo. Paolo da Milano. Sì, buongiorno Nicoletti, un piacere parlare con lei. Sono d'accordo col sondaggio, volevo anzi rilanciare proponendo l'abolizione delle piazze e delle vie intitolate a personaggi storici. Ma come si fanno poi? Come in Giappone, con dei numeri? Come si riconoscono poi? Ci vediamo a Piazza Mazzini, come lo dico? Che nomi diamo? Tante altre possibilità, diamo il nome di città, diamo il nome di zone, di località, di alberi, di fiori, di frutti, colori, di tutto quello che vogliamo. Sì, Piazza Gialla, Piazza Verde, Piazza Rossa già c'è, Piazza Grigio, Piazza Marrone non ci vorrà abitare nessuno che porta male. Questa è un'idea, lei sta estendendo il progetto, però in linea di massima è d'accordo che l'iconografia tridimensionale ormai è un concetto che appartiene al passato? Assolutamente, assolutamente d'accordo. Beh, vedo che ci sono moltissime persone che stanno chiamando, quindi mi sembra che siamo perfettamente in linea con quella che è una sensibilità contemporanea. Ci fermiamo un istante, riprendiamo tra un po'. Ricordate, abolire le statue e quelle che ci sono, mettere in un bel cimitero delle statue. Ognuno va e fa tutti gli altarini, i rituali che vuole, ma tranquillamente, con le persone a lui, diciamo, affini, senza bisogno di deturpare l'animo altrui con manifestazioni non condivise. A tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Proponiamo una moratoria mondiale alla costruzione e apposizione in spazi pubblici di effigi indistruttibili di personaggi meritevoli. Al massimo si costruiscano simulacri in materiali biodegradabili, che si consumino spontaneamente nel tempo massimo di un anno. Così si eviteranno anniversari e necessità di cerimonie con corone d'alloro, fanfare, eccetera. Proponiamo la rimozione indiscriminata di tutte le statue, busti, bassorilievi, statue equestri e simili che occupano spazi pubblici, facendo eccezione per quelle con conclamato valore artistico. Quelle oggettivamente orribili, come quella del Papa alla stazione Termini, saranno distrutte. Un'apposita commissione stilerà l'elenco delle statue che meritano la permanenza e di quelle che possono essere traslate in appositi cimiteri delle statue, visitabili e venerabili dal pubblico nostalgico in orari stabiliti. Chiama ora l'800-24-0024 per dirci se sei d'accordo con la proposta e, in caso positivo, aiutaci a perfezionarla per proporre un referendum a tutti gli stati del mondo. Il nostro motto sarà: la statua è nemica dello Stato. E si ricordi che solo un popolo senza statue è un popolo che sa guardare avanti. 800240024, ringrazio innanzitutto da Milano Peter Bescapè, Miriam Lucchetti, da Roma Alessandro Chiappini, Fabrizio Intonti. Stiamo raccogliendo un sentire generale che è fortemente contrario al nostro referendum. Nessuno vorrebbe abolire le statue, o perlomeno alla fine vorrebbe abolire qualcuno, soltanto quelle che gli stanno ideologicamente antipatiche. Pare che l'umanità abbia ancora bisogno di avere effigi, di essere circondati da questi pensosi, austeri, indicatori di vie eccelse che appartengono appunto a personaggi morti nel passato. Il bronzo che ci sovrasta ancora un nostro bisogno. Ma noi insistiamo, proponiamo questo referendum che ha due valenze. Da un certo punto di vista, mantenere comunque l'iconografia del passato con valore artistico, grande rispetto per l'arte, l'arte non si tocca. Ma tutte le statue che in realtà non hanno nessun valore, sono statue orribili che rappresentano persone che comunque sono già dimenticate ormai da secoli, capito? Ecco, quelle magari allontanarle dai posti pubblici, perché tolgono spazio, tolgono freschezza, sono motivo molte volte di diverbio, metterli in bellissimi spazi chiamati cimiteri delle statue, dove poi ognuno va lì e fa il suo rituale quotidiano di osservanza del pensiero rappresentato da quella statua, ma una sorta di leggerezza laica che si impone, senza distinzione, senza ideologie. Siccome l'ideologia cambia, il sentire umano cambia e la statua rimane, è chiaro che in tutte le epoche ci sarà qualcuno che vorrà togliere alcune statue, magari centrarne altre nei luoghi più frequentati. Allora, Giordano da Treviso, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Allora, io sono completamente, diciamo così, contro a togliere le statue dalle città e dalle... Le spiego anche il perché. Io, per esempio, ho odiato moltissimo quando i talebani hanno distrutto tutte le statue che... erano, perché è un segno di storia, la statua fa la storia. Ma scusi, ma lei vuol mettere i Buddha di Bamiyan in Afghanistan, che hanno 2500 anni, distrutte per puro integralismo religioso? quelli rimarrebbero comunque. Sto parlando delle tante statue degli illustri padri della patria. Nicoletti non ha nessuna importanza. Ogni statua ha la sua storia. La sua storia può essere positiva, può essere negativa, può essere un essere di secondo piano, ma non ha importanza. Quello insieme. Ma Giordano, attribuire, scusami, però le dico, mi segua. I libri di storia. No, il libro di storia che mi racconta la storia. La statua è un oggetto concreto che occupa dello spazio e che rappresenta un essere umano. Siccome la dignità di essere rappresentato in una statua è mutevole con i tempi, chi oggi noi consideriamo degno di stare nell'onore delle piazze magari fra 20 anni non lo è più. È accaduto, il passato questo ci insegna. Piuttosto che evitare questa sorta di furia di piazza che va a sradicare le statue, diciamo d'oggi in poi non si fanno più statue, o si fanno, qualcuno suggerisce farle come nel libro Il segreto del Bosco Vecchio di Dino Buzzati, facciamole di legno che dopo un po' scompaiono, si distruggono o vengono bruciate da un po' di anni che non ci sono più. L'assegnazione del diritto di occupazione dello spazio pubblico con un oggetto indistruttibile è legato alla sensibilità di un periodo, poi cambia la sensibilità e quindi quello rimane lì, però la persona magari è dimenticata, sovrascritta, rinnegata, magari ha detto delle cose orribili alla sensibilità di oggi, eppure rimane lì nelle piazze. Ecco, se non ha un valore artistico, l'arte naturalmente va rispettata, ma a un certo punto in poi le persone si ricordano diversamente, con dei grandi archivi digitali, facendo conferenze, libri, discussioni, ma non con qualcosa di così antico come la statua. Questa è un'idea, poi uno può anche non essere, può anche non essere d'accordo. Antonio da Napoli. Salve, io sentendo, innanzitutto complimenti, sentendo la frase la statua è nemica dello Stato, devo dire che mi sono un attimo rizzelato. Volevo solo dire una cosa. Perché non le piace come termine? No, io ho fatto l'accademia, scultura, quindi penso che fermola, prego. Lei rientra nella categoria degli artefici di opere d'arte, è un altro discorso. Sto parlando della statua che viene commissionata. Commissioniamo la statua del nostro. Capisce? Commissionare per dare. So bene la differenza. So bene la differenza tra opera d'arte e monumento storico. Io però voglio solo dire una cosa: che innanzitutto per me è importante. Questo è un parere personale. È importante ed educativo immortalare in marmo, in bronzo o comunque anche in materiali come sentivo, per esempio biodegradabili, insomma nuovi, no? Una figura storica, quindi. Non solo in arte ma anche in monumento, ma ho paura, e questo volevo aggiungere, dell'effetto domino, perché per esempio prima sentivo parlare di piazze intitolate a figure storiche, oppure sentivo parlare per esempio dell'architettura, no? Il Colosseo, il Foro Italico, e vogliamo parlare di libri. Sono esagerazioni, ma quello non lo... Quelle sono cose che si dicono oggi, addirittura si parla di abolire le caramelle perché sono scure, si chiamano murette, oppure qualcuno dice aboliamo il Negroni perché è discriminatorio. Si rientra nel paradosso. Io vorrei portare un principio di riflessione. Rendiamoci conto che comunque ogni volta che noi mettiamo una statua in una piazza di un essere recentemente scomparso o diciamo che si è ammantato di gloria terrena in un periodo vicino, potremmo immaginare che da lì a qualche decennio qualcuno dirà no, quello che ha detto non va più bene e vorrà abolire quella statua. Quindi tanto vale fare dei grandi luoghi in cui ci sono tutte le statue e si celebrano tutti i micro rituali che uno vuole attorno agli esseri umani, e basta vedere delle piazze con persone che non sa più nemmeno che sono, vestiti con redingote ottocentesche, con feluche settecentesche, con dei nomi che lontanamente ci ricordano libri di storia ma che non rappresentano più nulla, e poi molte sono anche brutte, sono dozzinali. Così si separerà ciò che è opera d'arte e merita di abbellire l'arredo urbano e ciò che è semplicemente vestigia di gloria umana che è transeunta e soprattutto sovrascrivibile. Aldo da Bari. Buongiorno. Allora, sono totalmente d'accordo con quello che avete detto, in quanto l'arte celebrativa è un'accusa di memoria dell'antica Roma. Nel frattempo la cultura si è diluita. Non c'è più il singolo da celebrare, ma la collettività. O comunque si celebrano persone che domani saranno dimenticate. Esempi civili che ha detto Mattarella, il rider, l'infermiere. Sono persone che domani, passerà il Covid, ci dimenticheremo di loro. Quindi è sorpassato quel tipo di concezione della celebrazione dell'individuo. E sono d'accordo anche sul fatto di mandare in pensione le statue, perché a Budapest ho visto il cimitero, tra virgolette, delle statue sovietiche, e hanno un fascino ancora maggiore quando sono decontestualizzate. ha detto una cosa bellissima. Pensi che bello, invece che distruggere le statue delle grandi dittature, che non c'ha senso distruggerle, dove occupano degli spazi vitali che la gente ci vive, si spostano, si mettono in dei posti aperti con dei begli alberi intorno, dei giardini, qualcosa di surreale ma fortemente emotivo, in cui ci si ricorda anche che c'è passato questo. Io non sarei per tenere, odio la distruzione, a meno che sono le strade brutte. Il Papa che sta di fronte alla stazione Termini è orrendo, per quanto ci hanno rimesso le mani è un insulto alla persona che dovrebbe rappresentare. Quella, se la fondono e ci fanno, che ne so, delle panchine per i giardinetti, secondo me non fanno nessun danno. Maurizio da Milano. Sì, buongiorno a tutti. Io volevo ringraziare per la provocazione intelligente, e proprio nell'ottica di migliorare il piano volevo capire se avete anche pensato dove andranno poi i piccioni a fare le deiezioni. Oh, lei ha toccato un punto veramente fondamentale. Se vogliamo dare un'utilità cosmica a quelle statue, che sono i cacatoi dei piccioni. E questo è vero, giustamente è vero, e danno anche lavoro ai pulitori di cacca di piccione che puntualmente, periodicamente, devono pulirle. Creiamo degli appositi cacatoi per piccioni messi in posti strategici e educhiamo i nostri fratelli pennuti e dotati di becco ad andare a farla dentro questi posti qua e non lordare più le sacre effigi di questi personaggi. Saranno messi nel cimitero delle statue e fungeranno da spaventapasseri in sé. Non si avvicineranno gli uccelli perché avranno paura e quindi saranno salvaguardate nella loro integrità e nella loro memoria. Paolo da Genova. Buongiorno, guardi, io sono favorevole perché le statue sono monumenti. Monumento viene da monere latino, cioè ricordo, monumento. E visto che la storia oggi è dimenticata, qualsiasi statua, bella, brutta cosa, Pasquino, eccetera, a partire da Alcibiade, il quale aveva distrutto ad Atene le erme, cioè le statue, e andò sotto processo per impietà. Le statue vanno mantenute perché sono monumenti per la storia, sia di personaggi cattivi che buoni. Se no, qua andiamo a finire. Sì, però è un problema di ecologia, di arredo urbano. Ecologia, ma se andiamo avanti, le piazze non basteranno più a contenere tutte le statue. Noi immaginiamo gli eroi dei nostri ultimi 10 anni, da cui, di fronte ai quali mi tolgo il cappello e mi inginocchio, mettiamoli tutti nelle piazze. Fra 50 anni ce ne saranno altrettanti. Fra 2 secoli la gente non sa più come districarsi in una sorta di universo pieno di statue. Sembreranno i guerrieri cinesi di terracotta, un esercito. Quindi a un certo punto facciamo una moratoria. Basta con le statue. Ricordiamo le persone in maniera diversa, facendo fondazioni, istituendo delle opere meritorie, capito? Ma le statue non rappresentano più nulla. È una cosa molto arcaica, molto del passato. Quelle belle teniamole, quelle che hanno un valore storico, architettonico, artistico, ma le orrende statue che riempiono le nostre piazze, a un certo punto leviamole tutte, tanto verrà qualcuno poi, prima o poi, che vorrà distruggerle in nome dell'ideologia. Ci fermiamo ancora un istante. Melog 800240024, i nostri esperti stanno cercando di redigere una sommaria statistica, è molto interessante, non l'avrei immaginato, mentre l'idea che la statua sia divisiva alimenta comunque la voglia di sopravvivenza come possibilità di esprimere il proprio pensiero dell'umanità, mi rendo conto che se noi togliessimo le statue, oggi nessuno litigherebbe se lasciare o no Montanelli che scrive con la sua lettera 22 dentro un giardinetto di Milano, nessuno si arrabatterebbe più sull'idea se Cristoforo Colombo vada disarcionato dal suo podio, impiccato e bruciato, vada lasciato lì. Diciamo che l'esistenza delle statue alimenta il diverbio ideologico e di questo probabilmente l'umanità si pasce. Nessuno è d'accordo, sono l'80% dei contrari. Quindi nessuno vuol togliere le statue, salvo le statue che ci stanno sul cazzo, quelle sì. Però evidentemente questa è una fattispecie, non può essere contemplata dalla nostra meritoria opera di abolizione delle statue. Noi andiamo avanti. 800240024, Luisa, provincia di Vicenza. Buongiorno Nicoletti. Io l'ascolto sì. Ancora dal 3131 con Guerzoni. Attenta, perché sono tanti anni fa. Non sono più una ragazzina neanch'io. Io volevo dire che c'è monumento e monumento. Noi qui a Schio abbiamo il simbolo della città che è l'uomo. L'uomo. Noi lo chiamiamo l'uomo in dialetto. Ma l'uomo in quanto uomo? Uomo? Nel senso omosessuale? Sì, Ma, sì, sì, ma è praticamente è una zona di tessitura la nostra, tutta la nostra zona pedemontana. E Alessandro Rossi, che era il titolare della Lane Rossi, che ha fatto questo monumento ai suoi tessitori. Sì, un omone grande, adesso ho capito, non l'avevo presente, adesso mi ricordo, l'ho anche vista questa statua, mi ricordo, sì, sì. Voi dite, il simbolo della nostra città, non potremmo mai abbatterla. Se per voi è un valore artistico e storico e siete unanimi nel lasciarla, lasciatela. Non mi sembra che è una statua simbolica, non rappresenta un uomo, ma rappresenta il simbolo appunto di un lavoratore. Diciamo che può essere annoverata fra, diciamo, le idee che possono essere lasciate, ma se rappresentasse un signore, il signor Omo, Giovanni Omo, probabilmente magari qualcuno un po' direbbe, ma perché lui e non un altro? Luca da Pavia. Sì, buongiorno. Sì. Mi sentite? Allora, io sono favorevole. Sono favorevole all'abolizione delle statue. E il dubbio che mi viene è sulla questione del cimitero. Fare un cimitero di statue mi è sembrata sulle prime una bellissima idea, però avanzo un dubbio che è se queste persone che in questo momento si sentono così offese dalla presenza di queste statue non si sentiranno comunque offese anche dal fatto che sono comunque in un cimitero e sentono comunque il bisogno. Il cimitero nel senso classico del Campo Santo, un luogo bellissimo, non i cimiteri oggi sembra dei condomini con tutti, certo, i palombai lì che non si, per trovare la persona ci vuole diciamo il contatore Geiger, trovare il parente, semplicemente un posto, un grandissimo giardino delle rimembranze in cui ogni statua ha il suo angolino con i fiori dove si possono fare millanta cerimonie rievocative. Lei pensi che oggi le statue, mi sta facendo notare in tonti, se fossero veramente ancora il ricettacolo del rispetto alla memoria, non sarebbero coperte di merda? Uno andrebbe tutti i giorni a togliere la testa da statua di un re del passato, capito, piuttosto che lasciarlo lì imputridire da lacida deiezione del piccione. Quindi il vero rispetto sarebbe, diciamo, misurabile dalle persone che avrebbe ogni statua. Tutti direbbero, vedi, di fronte a quella statua oggi ci hanno fatto già 3 cerimonie, facciamone una in più anche noi. Quindi si creerebbe una simpatica competizione nei, diciamo, necrofili rievocatori del principio che la statua rappresenti un'idea. Gilberto da Cosenza. Pronto, buongiorno, buongiorno. Dunque, premesso che sono contrario, nel senso che ovviamente la storia non va cancellata, deve rimanere, bello brutto deve rimanere. Ma la statua non rappresenta la storia, sì. Aspetta un attimo, non va cancellata, rappresenta l'omaggio che in un certo periodo fa il pensiero dominante rispetto a un essere umano che ha fatto, detto, pensato, immaginato qualcosa, che è transeunte, cambia. Cambiando questo, la statua non può essere eterna in peritura se rappresenta qualcosa che viene sovrascritto. Questo è il principio, chiaro che è una provocazione, però mica la sua proposta. Un passaggio della storia. Detto questo, comunque possiamo fare bellissimi ologrammi dove non occupiamo spazi, dove metteremo il personaggio di turno che è di moda in quel momento, dopodiché è passato di moda, passato il personaggio, via. Se si cambia ologramma si fa quello del personaggio. Ma fra l'altro ci potrebbe essere una sorta di, diciamo, di coesistenza di varie statue, che ne so, dalle 4 alle 5 Garibaldi, poi Mazzini, poi che ne so, Nino Bixio, poi cambia, Risorgimento passato, un altro turno, ci mettiamo tutte le statue che rievocano, che ne so, gli antichi eroi, non lo so, dell'epoca romana, poi fine tutto, poi le statue contemporanee, poi le statue di tutti i morti sul lavoro, poi tutti i morti di mafia, in modo che ci possa essere lo spazio occupato da ricordo reale, effettivo, contaminante di persone, senza che rimangano lì a riempire il paesaggio, e a un certo punto si banalizza pure la statua, poi banalizza il ricordo della persona. La statua alla fine diventa indifferente, fa parte dell'arredo urbano, nessuno vede più la differenza tra una statua e un cassonetto. Invece così sarebbe un continuo riportare in memoria le persone che meritiamo, secondo noi meritano di avere memoria. Andrea da Milano. Sì, buongiorno Nicoletti, siamo da Milano che siamo infestati di statue, ce n'è in ogni dove. Le ricordo che Spadolini, credo una cinquantina d'anni fa, 40 anni fa, fece una proposta interessante. Disse: queste statue nessuno sa più chi sono, facciamo una moratoria di 50 anni, non facciamo più statue, in Italia non si costruiscano. E Amurri, che era un ottimo giornalista con una vena pungente, disse: è un'eccellente idea, bravissimo Spadolini, facciamogli una statua. Guardi, la ringrazio perché mi ha dato, ha colmato la mia lacuna di ignoranza. Non sapevo che Spadolini avesse fatto questa proposta, però è stato il primo presidente del Consiglio laico in Italia, non a caso dopo il delitto Moro, e quindi evidentemente il ricordo di Spadolini viene illuminato da questa idea. Pensò quello che noi pensavamo noi, fare una moratoria sulle statue. Pensate oggi quanto potremmo perdere meno tempo a discutere se rimanere, se lasciare Montanelli o lasciare Cristoforo Colombo o il generale Caster. Vabbè, ci siamo divertiti. Buon fine settimana, ci sentiamo lunedì.